Italia in controluce. Oggi è il 18 maggio ed è il secondo appuntamento con la cronaca italiana nel racconto, nella narrazione di storie piccole e grandi del nostro paese. Buongiorno da Daniele Biacchissi. Guerre, lotta al terrorismo, al crimine organizzato, come funzionano oggi i servizi segreti in Italia? Quali problemi ancora da risolvere? Quale è la nuova riforma possibile degli 007? Il racconto di Antonio Vannuzzo. La guerra non si combatte più con bombe e carri armati. Ad eccezione del Medio Oriente e il sud del mondo, oggi l'idea ottocentesca della sovranità come territorio si è sostituita alla lotta per il controllo delle autostrade dell'informazione. I protagonisti, già nel primo dopoguerra, sono i servizi segreti. Anche in Italia, soprattutto a Roma e Milano, dagli anni 50 sono attivi numerosi servizi informativi che raccolgono dati, spesso con l'appoggio del mondo culturale. Ce lo racconta Aldo Giannulli, docente di storia contemporanea alla Statale di Milano e autore del libro Come funzionano i servizi segreti, edito da Ponte alle Grazie. A Milano, per esempio, i documenti ci dicono di una presenza molto forte dei servizi francesi negli anni 50, per i quali, secondo alcune note informative, avrebbero lavorato anche intellettuali come Paolo Grassi e come Vittorini, Elio Vittorini. Milano non è solo la capitale economica italiana, ma una città dalle più alte concentrazioni di media ed editoria in tutto il mondo. Soldi e cultura, un ambiente in cui si sono sviluppate figure come quella di Giuliano Tavaroli, l'ex numero uno della sicurezza di Telecom. Non dimentichiamo che il servizio informativo messo su da Tavaroli, da Ghioni, eccetera, era un servizio segreto di ottimo livello professionale. Questi sono riusciti a entrare nell'archivio elettronico della Kroll e a clonarne buona parte. Non è una cosa da tutti, La Kroll era tra le maggiori agenzie di investigazione al mondo. Tavaroli raccontò che nel 2004 il capo italiano della Kroll chiese al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta il nulla osta per un'azione di discredito nei confronti di Marco Tronchetti Provera, allora numero uno di Pirelli. Letta prende tempo e l'azione venne sventata proprio da Tavaroli. 3 anni dopo, nel 2007, venne approvata la riforma dei servizi segreti. 2, i fatti che spinsero il governo ad intervenire. L'estradizione di Abu Omar, imam di Milano, rapito dalla CIA nel 2003 con la complicità dell'allora numero uno del SISMI Nicolò Pollari, e il caso degli archivi segreti di Via Nazionale, dossier su giornalisti e uomini politici preparati dal funzionario Pio Pompa. Una misura che, come spiega Giannulli, ha blindato gli 007. Ora, per qualsiasi attività autorizzata dal Presidente del Consiglio, i servizi segreti non sono più perseguibili. In realtà è stata una riforma chiaramente ispirata dai servizi per fornire ai servizi una cosa che non c'è da nessuna parte del mondo, la scriminante per la quale quando un'operazione è autorizzata dal Presidente del Consiglio, questo vale come scriminante. Abbiamo stabilito l'obbligo dei magistrati di riferire di quello che hanno in istruttoria sul terrorismo. Viceversa, abbiamo schermato gli archivi dei servizi rispetto all'autorità giudiziaria, fissando dei limiti che praticamente vanificano questa possibilità di accesso. Oggi il terreno di scontro delle spie sono le piazze finanziarie di tutto il mondo e non mancano gli osservatori che vedono una mano politica nelle difficoltà di Grecia, Portogallo e Spagna. Italia in controluce. Vi ricordate le case del popolo? Quei palazzi dove si concentravano le attività dell'allora Partito Comunista in Toscana ed Emilia? Che fine hanno fatto? Come sono state riutilizzate? Chi ci lavora oggi? Il reportage di Ubaldo Cianciulli. Le SMS, le società di mutuo soccorso, le case del popolo attualmente sono centri di ritrovo e di incontro soprattutto per persone di una certa età. Si gioca a carte, si guardano le partite di calcio in televisione, si scambiano quattro chiacchiere e ogni tanto si parla anche di politica. Ma le SMS e le case del popolo hanno avuto una genesi molto diversa. Più antiche le prime, nate per soccorrere i più bisognosi, più recenti le seconde, nate sull'onda politica. A Firenze siamo andati a conoscere l'SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele, che risale al 1883. Fondata da una sessantina di soci e 30 anni dopo ne contava già un migliaio. Abbiamo incontrato Luciano Paoli, che nel dopoguerra è stato presidente dell'SMS e ci ha spiegato come è cambiata la società in questi anni. Vennero costituite per la necessità di andare incontro alla popolazione che a quell'epoca, in modo particolare ma anche successivamente, non aveva nemmeno il minimo indispensabile, non solo per vivere qualche volta, ma anche di assistenza sociale e via discorrendo. In dove il socio doveva prestare servizio, alla il malato, c'erano anche dei sussidi per i disoccupati. Questa è la storia che accompagna il movimento operaio della zona industriale di Firenze e aveva, come dire, un grande prestigio che si terminò praticamente nel 1922 con l'appropriazione da parte del partito fascista del fascismo del governo dell'associazione. Cioè si fu una donazione in senso, come dire, violento, in senso una coercizione forzata, sì, sotto la minaccia delle botte. E avendo donata al fascio, il governo, dopo il governo di liberazione nazionale del CNR, cioè quello subito, giustamente avvocò a sé i beni fascisti, non tenendo conto del mal tolto. E invece no, non ce l'ha di sé, ce la fecero pagare. E la nobile cifra di? 167 milioni nel 1968, da pagarsi in 10 anni. E quindi si fece questa attività di carattere politico-culturale, ricreativo. Oggi l'impressione che ho io è che la politica non vive tempi molto felici. C'è un rilassamento nei giovani. Cosa sarà stato? Il disamore nei confronti della politica, la società del consumismo, la motorizzazione, sono tutta una serie di cose che hanno allontanato il giovane da queste istituzioni. Oggi i bisogni sono diversi, i bisogni sono quelli della non solitudine, dello stare insieme, di avere dei punti di ritrovo. Storie più recenti per le Case del Popolo, ci siamo spostati al circolo ricreativo culturale e sportivo di Castello tra Firenze e Sesto Fiorentino. Ascoltiamo il vicepresidente Bruno Bartolini. Qui c'è anche un cinema importante. È un cinema de sé, quindi è conosciuto. Fa una programmazione un po' particolare, è seguita da un certo numero di persone, più o meno sempre le stesse. C'è una sala di biliardo, al limite possono giocare a carte, cioè noi proiettiamo le partite della Fiorentina e le altre partite di calcio sullo schermo gigante, addirittura se il cinema è disponibile anche addirittura sullo schermo del cinema. Stiamo ristrutturando la cucina in questo momento, fra un po' riapriremo una pizzeria, diciamo, per i soci. E terminiamo il nostro viaggio in via Caccini al circolo ricreativo Le Panche. Incontriamo Simone, un giovane gestore, con qualche sorpresa. Stasera facciamo una serata con animazione, facciamo un po' di karaoke, organizziamo l'aperitivo, cosa va molto di moda, e ho visto che i nostri soci stanno rispondendo bene anche a questa attività, più giovane rispetto a un circolo, però vedo che rispondano bene e a volte anche improvvisiamo anche qualche ballettino latinoamericano. È un po' merito anche del gestore giovane? Beh, può darsi, sicuramente avendo lavorato tanti anni nei villaggi ho portato delle idee un po' innovative, a volte anche un po' rivoluzionarie. Tra un karaoke e un ballo c'è anche la possibilità di farsi una pizza, perché vicino c'è qui al circolo anche una pizzeria che fa sempre comunque parte del circolo Le Panche. Certo, abbiamo la pizzeria e anche lì si mangia con dei prezzi più bassi, quindi c'è la possibilità di mangiare, poi venire di qua, si spende poco, si sta bene. Italia in controluce. La terza e ultima storia parla di benzinai low cost e viene da Trieste con Andrea Saule. La benzina meno cara d'Italia si trova a nord-est e non è nel Friuli Venezia Giulia a statuto speciale, dove esiste ancora il carburante agevolato, ma a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, e a San Martino Bonalbergo, nell'entroterra veronese. 13, 15, 17 centesimi in meno per ogni litro di benzina, per un risparmio sul pieno che può raggiungere gli 8 euro. Merito delle pompe bianche dei supermercati Iper. Dopo le liberalizzazioni volute da Bersani nel 2006, la grande distribuzione ha iniziato a disseminare pompe con il proprio logo nei pressi dei centri commerciali, con l'obiettivo di invogliare i clienti a fare compere, rimborsando di fatto il tragitto. Nessuno si era spinto così in là però, né come automazione del servizio, né come prezzi. Risultato, dall'apertura a luglio 2009, una media di 60-70 mila litri al giorno, il triplo di quanto eroga una normale pompa di benzina, di dimensioni analoghe. Spiega la strategia dell'Iper il direttore del supermercato di Castelfranco, Roberto Simili. Noi non vogliamo assolutamente diventare grandi con l'apertura dei distributori così in modo selvaggio. Noi non Iper avremo intenzione di mettere a fianco un distributore per veramente mettere in condizione il cliente che arriva da lontano ad avere un ritorno del sacrificio che fa. Un cliente deve capire una cosa fondamentale: se vuole essere servito e reverito, il costo del personale deve essere messo dentro sul prezzo di vendita, c'è poco da fare. Nel momento in cui noi apriamo queste pompe qua, funziona completamente l'opposto di una volta. Tu una volta arrivi al gestore, gli davi le chiavi, dai, pulitina i ventri, fammi il pieno, buonanotte suonatori, e pagavi quello che dovevi pagare. E i clienti? tutti soddisfatti di spendere meno, a costo di fare qualche sacrificio fisico in più. Sono abituati al servizio, al servito, quindi tanti vengono qua, per la prima volta hanno difficoltà all'erogazione, però noi cerchiamo in tutti i casi comunque di aiutare, siamo presenti, loro ci chiamano, noi andiamo, li aiutiamo e dopodiché ho visto che gente di 60, 70, 80 anni vengono qua e si fanno la benzina da soli. Le pompe di benzina nel raggio di 30 km hanno dovuto abbassare i prezzi. Tutto questo ha avuto ottime conseguenze per il consumatore, un po' meno per l'occupazione, con decine di posti di lavoro persi. Ora, per essere competitivi, dovranno chiedere una mano ai gestori, piuttosto che utilizzare la strategia della pulce nell'orecchio per far credere che la benzina bianca sia meno buona. Senti, mi chiedono, ma sia buona sta benzina? Perché è talmente basso il prezzo che credo che ci sia dell'inganno sotto. Noi italiani siamo abituati a questo. Siamo convinti che dove c'è un qualcosa o dove c'è un'azienda che lavora seriamente ci sia l'inganno. Ma a fugare i dubbi ci pensa un automobilista. Il dubbio mi è venuto, anche guardavo i consumi, quanti chilometri facevo col consumo, però mi è sempre sembrato regolare. Il prossimo passo dell'Iper è di aprire a Udine, poi nel resto del nord Italia. Seconda edizione di Italia in controluce, domani torniamo alle 6.30 su Radio 24.